Buongiorno, sono Mario Sabatino, oggi è il 18 marzo del 2011 e questo è un nuovo appuntamento con le mie istruzioni per l'uso. Vi parlerò della responsabilità del recesso senza giusto motivo dalla promessa di matrimonio. La fattispecie è regolata dall'articolo 81 del Codice Civile, secondo il quale la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure quella promessa che risulti dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla, cioè rifiuti di eseguire la promessa, a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento, recita il secondo comma dell'articolo 81, è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. Infine, una norma, diciamo, di chiusura in ordine alla possibilità di proporre la domanda di risarcimento è il terzo comma, secondo il quale appunto, la domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Nel 2010 la Cassazione, con sentenza numero 9052, si è espressa sulla natura dell'obbligazione risarcitoria di cui all'articolo 81, stabilendo che essa rappresenta una singolare obbligazione ex lege a carico della parte che si avvale del diritto di recesso dalla promessa di matrimonio. Quindi, esclusa la configurabilità sia di un illecito extracontrattuale, in quanto lo scioglimento dalla promessa di matrimonio integra un'espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, con la conseguenza che il recesso, anche se esercitato senza giusto motivo, non potrà mai essere considerato condotta antigiuridica, e sia, quindi viene anche escluso l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale, considerato che la promessa di matrimonio non è un contratto, neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti. Deve quindi ritenersi, ad avviso della Corte di Cassazione, che l'obbligazione prevista dall'articolo 81 costituisca una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo. Quindi la natura tale obbligazione risarcitoria non è né contrattuale né tantomeno extracontrattuale, ma è una forma di riconoscimento, di riparazione a sé stante. Secondo un più antico orientamento della Cassazione, colui che si avvale della promessa di matrimonio per ottenere dalla donna il consenso ad avere rapporti sessuali, ove tale promessa sia stata fatta con il proposito di non mantenerla, o anche soltanto senza una consapevole valutazione delle ragioni ostative all'adempimento, la condotta si pone come elemento costitutivo di un illecito extracontrattuale e rappresenta una fonte autonoma di responsabilità distinta da quella prevista dall'articolo 81. Questo risalente orientamento della Cassazione, diciamo, va a confermare quello più recente, perché c'è appunto questa distinzione tra la fonte principale, che è quella dell'articolo 81, fonte autonoma, e la fattispecie ulteriore, che è quella della promessa di matrimonio fatta per estorcere alla propria compagna il consenso ad avere rapporti sessuali. Chiaramente questa fattispecie, questo caso è fuori dalla realtà odierna, però può può essere utile per inquadrare meglio l'istituto. Si ritiene che sussista il giusto motivo per il recesso, infine, in presenza di quei fatti che, se conosciuti dai futuri sposi prima della promessa, ne avrebbero impedito la conclusione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.